Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata, come mi piace ripetere ogni giorno se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail è sempre la stessa, unabusoalgiorno@radio24.it, così come sempre lo stesso è il mio blog Guardie o Ladri sull'homepage del Sole 24 Ore, dove ormai lo sapete affronto temi di legalità e di criminalità organizzata, fenomeno che sta divorando il paese, ma ahimè ancora qui nel nord e nel centro non tutti ne sono convinti. Ieri abbiamo cominciato una chiacchierata con Gianluca Manca, che è il fratello di Attilio Manca, una grande promessa della chirurgia italiana, un urologo deceduto il 12 febbraio 2004. Già ieri mi sono posto insieme a voi la domanda: ma perché parlarne oggi? Il motivo c'è, l'abbiamo già detto ieri, perché verosimilmente la procura di Viterbo arriverà ad una terza archiviazione, ad un'ennesima archiviazione potremmo dire, sulla morte di questo urologo trovato cadavere nella sua casa di Viterbo in circostanze molto molto molto strane, così come stranissima è la circostanza che nell'ottobre del 2003 questo urologo, tra i primi in Italia a usare la chirurgia laparoscopica per interventi di prostata, si recò in Francia. E in Francia nell'ottobre del 2003, contemporaneamente, chi c'era? Ma guarda tu, Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra. Abbiamo sentito la convinzione del fratello Gianluca Manca che probabilmente l'incontro fra Attilio Manca e Bernardo Provenzano è stato molto ma molto ravvicinato, e probabilmente Attilio Manca è stato ucciso proprio per questo. Perché dico ucciso? Non sono certo io a doverlo dire, ma sono molti quelli che lo credono. I familiari innanzitutto, ma anche molte persone che si sono anche riunite in un gruppo su Facebook proprio contro la richiesta di archiviazione, possibile o quelle passate comunque, della procura di Viterbo sul caso Manca. E per continuare a parlare, per cercare di capire qualcosa di più, noi oggi abbiamo l'avvocato della famiglia Manca, l'avvocato Fabio Repici. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Vorrei partire da un dato che ieri non abbiamo affrontato con Gianluca Manca. Ne abbiamo dette tante di stranezze, ma con lei oggi vorrei partire da una che forse è più vicino alla sua professione di avvocato. Vale a dire, Gianluca Manca ci diceva che mai sono stati fatti dei controlli incrociati sui tabulati telefonici del cellulare di Gianluca Manca. Ecco, se questo è vero, cosa vuol dire? Il cellulare di Attilio Manca. Di Attilio Manca, mi scusi. Intendete. Certo. Guardi, in realtà l'azione della procura di Viterbo fin dall'inizio, fin dal ritrovamento del cadavere di Attilio Manca, si è caratterizzata per l'assoluta lacunosità. Le indagini sono state fatte poco e male, direi pochissimo e malissimo, e fin dal primo momento in cui io ho iniziato a occuparmene, segnalai l'opportunità di fare le acquisizioni di tabulati telefonici sia di Attilio Manca sia di altri soggetti il cui rilievo emergeva dalle indagini. In realtà questo non venne fatto se non solo per delle acquisizioni relative a brevissimi periodi, acquisizioni fatte peraltro in modo così confuso e superficiale che si è arrivati al punto che la squadra mobile di Viterbo ha attestato in un'informativa dei dati che erano esattamente contrari alla realtà, addirittura in un caso affermarono l'insussistenza di contatti telefonici fra Attilio Manca e il cugino Ugo Manca, uno degli indagati, nonostante da quei pochi tabulati che essi stessi avevano acquisito le telefonate risultavano. Ecco, lei ha ricordato Ugo Manca, noi l'abbiamo già detto ieri, è il cugino della famiglia Manca, di Attilio e di Gianluca Manca, una persona non propriamente di specchiata moralità e onestà, ma questo va dato atto alla famiglia Manca, perché leggendo anche sul sito attiliomanca.it trovate la storia anche di questo personaggio che in primo luogo la stessa famiglia come dire pone in evidenza, proprio perché non così pulito, tra virgolette. Beh, ovviamente più che la stessa famiglia è sicuramente il comportamento dello stesso Ugo Manca nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere del cugino a metterlo in luce. Ecco, parliamone. Qual è stato, diciamo, il ruolo del cugino e si è indagato abbastanza sul suo ruolo? Ribadisco, quanto alle indagini, si è fatto poco e male, quindi non si è indagato abbastanza su nulla. Quanto al ruolo del cugino, al momento dell'arrivo della notizia a Barcellona Pozzo di Gotto circa il ritrovamento del cadavere di Attilio Manca, notizia che per puro paradosso ai genitori di Attilio Manca è arrivato per il tramite del padre di Ugo Manca attraverso un canale contorto di comunicazione partito dall'ospedale di Viterbo, Ugo Manca si è messo in luce per un insolito attivismo. Che era funzionale a impedire che i genitori di Attilio Manca, in particolar modo la madre, partissero immediatamente per Viterbo, e in secondo luogo mirato alla presenza di Ugo Manca al loro fianco a Viterbo. Fatto è che Ugo Manca si precipitò a Viterbo nella notte fra il 12 e il 13 febbraio e il 13 mattina arrivò a Viterbo con un comportamento che lasciò sbigottiti coloro che lo videro, perché si presentò alla procura di Viterbo a chiedere il dissequestro dell'immobile dell'abitazione di Attilio Manca con giustificazioni che sembravano delle arrampicate sugli specchi, perché disse che doveva andare lì a reperire degli abiti per abbigliare il cadavere di Attilio Manca e altri comportamenti di questo, ecco, tipo. Di questo tipo. Ecco, vorrei chiederle questo, avvocato Repici. Tra gli elementi che la famiglia Manca pone come strani c'è anche il fatto che l'autopsia sul cadavere di Attilio Manca, che ricordiamolo si sarebbe suicidato iniettandosi una dose letale di due dose letali di sedativi, sostanze stupefacenti, il tutto condito da abbondanti dose di alcol, c'è anche che l'autopsia è stata condotta dalla moglie del professor Rizzotto. Il professor Rizzotto era il primario del reparto di urologia dell'ospedale di Viterbo messinese, così come della provincia di Messina era anche Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto. Ecco, l'autopsia è stata condotta, voi dite in maniera superficiale, dalla moglie del professor Rizzotto, medico legale la moglie. Ecco, ma è normale che la moglie di un primario esegua l'autopsia sul cadavere del vice primario di quel reparto? Qui il problema non è se è normale che a condurre l'autopsia sia la moglie del primario. Qui sono dei dati documentali. Quanto alla superficialità dell'autopsia, non lo dico io, ma lo dicono le stesse carte dell'autopsia, perché il medico legale visitò il cadavere di Attilio Manca già nella mattina del 12 e il 13 condusse gli accertamenti autoptici e non fu in grado di affermare un dato che però era rilevantissimo, direi il più rilevante nell'immediatezza dell'indagine, cioè la data e l'ora della morte di Attilio Manca, cioè la prima cosa che un medico legale deve fare quando fa un'autopsia. Consideri che c'è rimasto ancora oggi un buco nero nelle indagini, perché abbiamo ormai prova che la morte di Attilio Manca sia capitata a cavallo fra l'11 e il 12 febbraio, nella notte fra l'11 e il 12 febbraio dell'anno 2004, e quindi abbiamo la prova che non si ha alcuna notizia di ciò che abbia fatto Attilio Manca per tutta la giornata dell'11 di febbraio 2004. Le ultime sue notizie risalgono alla sera del 10 di febbraio. Ma dicevo, quanto al ruolo del medico legale, qui la stranezza non riguarda il fatto che il medico legale è la moglie del primario. Il problema è che prima ancora che il medico legale ricevesse l'incarico dalla procura, la stessa procura aveva già sentito come testimone il marito. Quindi qui il consulente tecnico del PM è il marito è la moglie del testimone. Ho capito. E poiché quindi un consulente tecnico, la prima cosa che viene chiamata a fare quando assume un incarico è quello di segnalare la insussistenza o meno di ragioni di incompatibilità a ricevere l'incarico, mi pare ovvio che al momento in cui viene chiamato una persona a testimoniare, è chiaro che l'incompatibilità dovrebbe scattare automaticamente. Di cosa pensate avranno parlato la sera del 12 febbraio a tavola marito e moglie, se non della morte di Attilio Manca? Assolutamente, io ne avrei. E poi il 13 febbraio La signora, la dottoressa Ranalletta, firma un verbale in cui attesta la insussistenza di incompatibilità ad assumere l'incarico. E non sapeva che il marito era stato già sentito come testimone? Ecco, lasciamo i nostri radioascoltatori con un dubbio e con una domanda in sospeso, che probabilmente la risposta ce l'ha in automatico. E le voglio chiedere un'ultima cosa. Quanti poteri si saranno mossi, per, a suo giudizio, a vostro giudizio, per far sì che la morte eventuale come omicidio di Attilio Manca diventasse poi invece un suicidio? Guardi, io non voglio fare illazioni e fare affermazioni che possano far immaginare chissà cosa. Qui il punto è uno, e a questo ci tengo a sottolinearlo. Nel resto del paese ancora non si è ben compresa la centralità nelle dinamiche criminali dell'intera nazione, che assume un luogo che si chiama Barcellona Pozzo di Gotto, che è il luogo da cui è partito Attilio Manca e da cui sono partiti molti degli indagati per la sua morte, ed è un luogo che nell'ultimo quindicennio della storia di Cosa Nostra è servito per la tutela della latitanza dei più importanti boss di Cosa Nostra, a partire da Bernardo Provenzano. Avvocato Repici, io la ringrazio ovviamente per la sua testimonianza e do appuntamento ai nostri radioascoltatori ai prossimi giorni, perché continueremo a indagare sulla morte di Attilio Manca. Io ringrazio in studio Laura Fagin, in regia Peter Bescapè, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.